Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E benvenuti anche a quest'altra puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che va a riprendere una conversazione che Yuri Meda, docente di storia all'Università di Macerata, ha tenuto a Montemerano il 1 settembre. In realtà si presentava il suo volume, da lui è stato curatore assieme ad altri 8 giovani ricercatori, ovvero sia Falce e Fumetto, storia della stampa periodica socialista e comunista per l'infanzia in Italia dal 1893 al 1965, edita da Nerbini, che tra l'altro ricordiamo è la collana dell'editoria socialista ancora durante il fascismo e che fu quella che poi negli anni 30 cominciò a pubblicare i fumetti provenienti dall'America. E non era una cosa semplice. Perché questa ripresa della conversazione di Yuri Meda? Perché evidentemente vogliamo puntualizzare anche noi che il pioniere non nasce dal nulla, a tutti dei tentativi che affondano proprio alla fine dell'Ottocento per proporre un'editoria infantile ai giovani proletari, cosa complessissima perché poco alfabetizzati, difficoltà economica a stampare le immagini, repressione durante il fascismo, insomma era una missione impossibile che poi ha trovato però dalle sue radici i germogli nel dopoguerra, in particolare nel pioniere. Quindi dopo uno stacchetto musicale la parola a Yuri Meda. Quindi torniamo alle parole di Yuri Meda, storico, proferite presso la Biblioteca di Storia dell'Arte di Montemerano il 1 settembre scorso, in cui si tratteggiavano le pubblicazioni anche in clandestinità che il Partito Comunista voleva dedicare ai giovani proletari, cominciando proprio dal foglio Il Fanciullo Proletario. Gastone Sozzi è sostanzialmente un personaggio che è caduto completamente nel dimenticatoio, eppure all'epoca Gastone Sozzi è stato un emblema dell'antifascismo, logicamente per l'epoca vi intendo gli anni 20, gli anni 30 sostanzialmente, perché Gastone Sozzi fu un dirigente del allora Partito Comunista d'Italia, quello che si era poi sciolto immediatamente dopo l'affermazione del regime fascista, ed era un personaggio che dopo aver attivamente combattuto a livello propagandistico con la produzione e la gestione di numerosi periodici clandestini una dura lotta contro il fascismo emergente in quegli anni, perché ancora eravamo nella fase tra il movimento e il partito, venne ucciso in carcere, morì in carcere, divenne un martire dell'antifascismo. Se vi dico Antonio Gramsci sapete tutti di chi sto parlando, se vi dico Gastone Sozzi quasi niente. Il Fanciullo Proletario, prima dell'edizione clandestina del 27, perché Gastone Sozzi lo prende in mano sostanzialmente nel 27 per farne questo organismo di propaganda per i fanciulli, già nel 1922 era uscita la prima edizione legale, che era stata affidata, badate bene, non alla direzione di una persona qualsiasi, non alla direzione di un, diciamo così, magari poco illustre dirigente del partito, no? Ma la direzione di Nicola Bombacci. Nicola Bombacci, anche lui probabilmente a qualcuno dirà poco, però invece è un personaggio molto importante, perché Nicola Bombacci, che poi morirà sostanzialmente fascista, nell'ultimo scorcio appunto della Repubblica Sociale Italiana, all'epoca era un dirigente molto importante, molto quotato del Partito Comunista, e era un esponente di spicco del partito. Quindi il fatto che il partito decidesse di affidare la direzione di un giornalino per bambini a Nicola Bombacci, cioè uno dei suoi principali esponenti dirigenti, era un dato molto importante. E in effetti Il Fanciullo Proletario del 1922 ha delle relazioni molto forti con Il Fanciullo Proletario Clandestino del 1927. In particolar modo l'organizzazione della pagina come un altro importante, conosciuto, noto giornale per bambini di quell'epoca, però di tutt'altra parte politica. Ecco, Le Piccoli era il giornalino del Corriere della Sera, cioè era il giornalino di Via Solferino, era il giornalino, veniva chiamato anche l'organo della gioventù borghese medio-piccola. Quindi era in qualche modo veramente l'alfiere dei rampolli della borghesia, della rampante borghesia italiana. Era un giornalino a colori, era un giornalino molto costoso, era un giornalino organizzato con questa classica divisione in sei vignette con sotto degli ottonari in rima baciata, delle semplicissime rime in rima baciata, che era una formula tutta italiana che fino a un certo punto sostituì il fumetto. Poi sostanzialmente negli anni 30 arriverà il fumetto americano che in qualche modo spazzerà via questa cosa italiana, questa, diciamo così, invenzione italiana, e il Corriere dei Piccoli continuerà a resistere. Chi di voi ricorda la Pimpa, ricorda tutti questi personaggi, si ricorderà anche le rime che accompagnavano, no, i vari personaggi, Sor Bonaventura per esempio, qualcun altro di questi, no? Sor Pampuri, insomma erano tanti e molto famosi. Ecco, Il Fanciullo Proletario, organo del Partito Comunista per i bambini proletari, adotta la formula illustrativa scelta, inventata potremmo dire, dall'organo della borghesia per i suoi bambini sostanzialmente. Non deve stupire che l'editoria socialista per ragazzi prendesse a modello canoni dall'odiato mondo borghese. In realtà era l'intero movimento operaio che, a cavallo del XIX e XX secolo, utilizzava linguaggi dominanti per propagandare la cultura proletaria. Ad esempio, anche nelle canzoni popolari di lotta, per lo più si utilizzavano le arie famose della lirica dei ricchi teatri, rinominandole però con versi socialisti. A tal proposito, rileggo un catalogo antico del 1976 che introduceva la mostra La società attraente, cooperazione e cultura nell'Emilia Romagna, un lavoro a cui partecipai con mio fratello Augusto e nello spazio a noi assegnato riguardante la musica trovo. Nel 1855 si istituiva nei locali sociali una scuola di musica strumentale che proseguì i suoi corsi fino al 1922. Da questa ebbero vita e sviluppo varie istituzioni artistiche, educative e ricreative a carattere popolare, come scuola mandolinistica, corpo corale, compagnia filodrammatica, scuole di canto maschile, femminile ed infantile, corpo bandistico, orchestra stabile, scuola di recitazione, teatro del popolo, che tanta importanza dovevano poi assumere nelle città e che furono distrutte dal fascismo. Il tipo di musica proposto, continua il catalogo, è ancora oggi in prevalenza appartenente al repertorio lirico, che come si sa ha avuto nella nostra regione grande diffusione anche negli strati sociali meno abbienti, arrivando addirittura ad influenzare direttamente o ad inibire la creazione di un autonomo patrimonio di musica e canti popolari. Dunque, l'alfabetizzazione delle masse popolari procedeva impossessandosi delle culture padronali, in una tradizione che proseguirà poi nei decenni successivi, come nell'elogio dell'immediato dopoguerra al sindacalista nonché deputato di Molinella Giuseppe Massarenti. Evviva Massarenti, per te abbiamo lottato con fede socialista che mai ha vacillato. La demo si dimena perché ha constatato la forza e la coscienza che abbiamo conquistato. E noi ti adoreremo che tanto hai meritato. Evviva Massarenti, maestro e deputato. Tutto ciò, conclude il testo del catalogo, dimostra che spesso il movimento cooperativo, più che produrre cultura musicale, assorbe, facendone supporto, quella dominante. la scoperta del fanciullo proletario del 1922 scatena una serie di domande. Quanti altri periodici esistono stampati dal Partito Socialista e dal Partito Comunista per bambini che non sono ancora stati studiati? Voi probabilmente avete presente Il cuore di Serra, quello sostanzialmente, no, ridicolo, pieno di satira e quant'altro. Ma dovete sapere che quel cuore non è figlio di nessuno, viene da un altro cuore che non è quello di Amicis, ma è un cuore che è il giornalino stampato dal Partito Socialista nel 21 fino sostanzialmente poi alla marcia su Roma, che è quello che è pubblicato proprio dal Partito Socialista a Milano. Ci sono le opere con cui Dina Rinaldi nel corso degli anni, Dina Rinaldi credo che la conoscerete, ne avete sentito parlare, era insieme con Gianni Rodari, che sicuramente conoscerete, la direttrice storica del Pioniere, l'anima vera dell'organo per bambini del Partito Comunista. E Dina Rinaldi nel corso degli anni, soprattutto tra gli anni 60 e gli anni 70, quando il progetto del Pioniere comincia a entrare in crisi per tutta una serie di motivi, dedica una grande attenzione a costruire una memoria di quell'esperienza, perché ha ragione, è un'esperienza unica che merita di essere conosciuta. E allora fa uscire Vallone del Purgatorio, che è degli anni 50 la prima edizione, poi lo fa riuscire successivamente perché è una raccolta molto bella e raccoglie lettere di bambini mandate al Pioniere dal 50 al 58 e sono una più bella dell'altra. Ci sono molti orfani di partigiani che raccontano la loro esperienza, molti bambini dei convitti Scuola della Rinascita, che era un'esperienza molto bella, poco studiata anche quella, fatta dall'ANPI nel dopoguerra per raccogliere gli orfani dei partigiani caduti durante la Resistenza. E poi fa uscire Per la Libertà, che è una raccolta invece delle storie sulla Resistenza pubblicate sul Pioniere. Amen is can a mountain exist before it's wild. Oltre 20 periodici pubblicati tra il 1890 e il 1960, quando c'è sostanzialmente la chiusura del Pioniere, prima dal Partito Socialista, direttamente o indirettamente, cioè direttamente dal partito, per esempio dalle organizzazioni giovanili promosse dal partito, oppure da persone vicine al partito, con chiara ispirazione, diciamo così, socialista. Io ho detto qui di ispirazione progressista, socialista o comunista, tra il 1890 e il 1960. E una storia completamente dimenticata, un capitolo dimenticato della storia del movimento operaio. Qual è questo capitolo dimenticato? Non tanto la storia della stampa periodica per bambini, quanto la storia del tentativo di intervento educativo del partito all'interno di un settore come quello dell'infanzia, che in qualche modo, diciamo così, era di principale intervento della borghesia, perché la borghesia attraverso la scuola, come ha spiegato poi Bourdieu negli anni 70, applicava il proprio metodo di riproduzione sociale, cioè riproduceva la società così com'era attraverso la scuola. Il Partito Comunista, l'unica, e il Partito Socialista prima, l'unico possibilità che aveva sostanzialmente per fare un tipo di intervento educativo, qual era? L'organizzazione giovanile che era in grado di mettere in campo. I primi tentativi di creazione di un'organizzazione giovanile del Partito Socialista avvengono nel 1921, i primi, poi diventeranno organici più tardi, ma sarà solo nel dopoguerra che si arriverà alle organizzazioni vere e proprie, e poi la stampa periodica, perché la stampa periodica era quella attraverso la quale il Partito Socialista poteva tentare con fiabe, con illustrazioni, con fumetti, i primi fumetti, con tutta una serie di tentativi, così come già la borghesia faceva, di promuovere quelli che erano i suoi valori di solidarietà, di amicizia tra i popoli, di fratellanza, di pacifismo, per esempio, no? Ed è quello che sostanzialmente succede. Le prime, perché in realtà non sono fumetti, perché ancora nell'Ottocento ci sono due motivi sostanzialmente. C'è un pregiudizio culturalista, cioè se voglio promuovere un certo tipo di cultura, se voglio propagandare determinati valori, devo farlo attraverso la letteratura, mica lo posso fare con delle immaginette. Voi dovete pensare che l'alfabeto in quel momento rappresenta per le classi proletarie che si affacciano al mondo anche della politica in quegli anni stessi, no? Con il partito operaista e no? Quant'altro, rappresentano qualcosa di molto importante, perché rappresenta l'affrancamento dall'ignoranza che sostanzialmente in cui sono sempre state tenute le classi popolari fino a quel momento e l'accesso alla cultura. Quindi c'è in qualche modo una grande attenzione nei confronti proprio della parola scritta, e questi giornalini sostanzialmente non sono illustrati, ma c'è anche un altro motivo, che l'illustrazione costa, ma costa tanto. Siamo nell'Ottocento, scusatemi, inserire delle illustrazioni anche non a colori all'interno di questi periodici, quindi sono sostanzialmente delle piccole strenne che escono una volta all'anno e che sono dedicate ai bambini quando? Per Natale. Quindi il Partito Socialista, fortemente anticlericale, fa uscire comunque le storie per bambini, logicamente reinterpretate da loro alla luce dei loro valori e quant'altro, per Natale, e le dà ai bambini. E qui vi ho fatto due esempi, Figli del Popolo e Strana Minima Socialista per Ragazzi, del 1894 e del 1897, che sono indirizzate appunto ai figli del proletariato, in realtà dei figli del proletariato un po' particolari, perché i figli del proletariato vero, cioè sostanzialmente i miei bisnonni che erano contadini, non avevano sicuramente accesso a questo tipo di periodici, perché i miei bisnonni per esempio avevano fatto forse la prima elementare, quindi primo non avevano i soldi per poterli comprare, secondariamente di poi molto spesso avevano difficoltà e in casa non c'era nessuno che li sapeva aiutare a leggere, quindi erano in realtà, diciamo così, molto spesso indirizzati a chi? Ai figli dei piccoli borghesi, dirigenti dei partiti socialisti e delle sezioni locali del Partito Socialista, che poi li diffondevano. Questa è una cosa un po' particolare, però. Quando comincia a cambiare in qualche modo l'impianto interno? Quando comincia ad apparire allora l'immagine, quella che poi diventerà prorompente con il Pioniere, no? Possiamo dire che arriva nel 1911. Primavera è un esperimento importantissimo, perché Primavera del 1911 è il primo giornalino quasi proprio riconosciuto come figlio proprio dal Partito Socialista, che esce con le immagini a colori. Sono poche, però ci sono. Addirittura in alcune storie ho trovato i fumetti. E non è un caso che sia un esperimento molto innovativo, perché sapete chi c'è dietro a questa storia qua, a questo periodico qui che esce solamente due anni, poi fallisce perché, come vi ho detto, fare le illustrazioni a colori costa un sacco, loro le fanno, ma poi sostanzialmente non riescono a vendere e quindi chiudono. C'è Vittorio Podrecca. Podrecca e Galantara, l'asino socialista, quel grande periodico satirico che esce in quegli anni lì, è proprio quel Podrecca lì. Vittorio Podrecca ha questa grande e geniale intuizione, che è quella sostanzialmente di introdurre lui, che era un grande esperto sostanzialmente di vignettistica, introdurre proprio l'immagine a colori all'interno di questo periodico qua, che dura pochissimo, due anni esce, poi sostanzialmente fallisce. Perché? Perché vi potete immaginare, se già le strenne che costavano poco, quelle là che abbiamo detto che uscivano una volta all'anno, non le comprava nessuno, un periodico come questo che è mensile, interamente a colori, uno per starci dentro con i costi di produzione lo deve vendere comunque a qualche lire, e i bambini dell'epoca i figli del, diciamo così, di quel proletariato a cui era indirizzato non ce li avevano quelle due lire da spendere. Facciamo un salto ulteriormente in avanti, faccio anche qui un salto, quindi salto il primo maggio dei fanciulli, che è un'esperienza minimale però molto interessante, perché ci sono dentro personaggi del Partito Socialista che poi, come il buon Benito Mussolini, passeranno come capovacca, insomma altri, all'interno del partito fascista. E mi interessa invece parlarvi del Germoglio, settimanale illustrato per i fanciulli del 1920. Perché del Germoglio? Perché il Germoglio è un esperimento non solo editoriale e illustrativo molto importante, perché sostanzialmente apre nel 1920 il capitolo della organizzazione giovanili del Partito Socialista. Cioè nascono i primi circoli di bambini lettori del Germoglio e si comincia a pensare nella realizzazione non tanto e non solo di un periodico che circoli che si è letto, ma di un periodico che circoli che si è letto all'interno di circoli di lettori che sono organizzati, che costituiscono una rete e che sostanzialmente a livello nazionale si estendono come una vera e propria organizzazione sul territorio. E questo è molto importante, perché anche qui il Germoglio guarda a una precedente esperienza molto nota di qualche anno prima, esattamente del 1906, che è stata fatta sempre da nell'ambito comunque, diciamo così, della cultura, diciamo così, più borghese, più liberale. E qual è? È il giornaliero della domenica, quello di Vamba, perché il giornaliero della domenica di Vamba si reggeva su una confederazione di cenacoli giornalineschi organizzati città per città. Quello di Bologna era quello di Asinelli, ogni città aveva il suo cenacolo, che organizzava veramente gite per bambini, riunioni, cinematografo, quant'altro, e era una vera e propria microorganizzazione per l'infanzia, tant'è che sarà coinvolta anche nelle manifestazioni del Maggio Radioso, che darà il via all'ingresso all'intervento italiano nella Prima Guerra Mondiale. Il Germoglio in qualche modo riprende quell'esperienza lì, è il primo che cerca, sotto la direzione di Italo Toscani, che non è anche lì un personaggio, è un personaggio minore, poco noto, ma importante, cerca proprio di lanciare questo. Abbiamo spesso parlato dell'Associazione Pionieri d'Italia, l'API, quella organizzazione territoriale data in città e in paesi che il pioniere si era dato, non solo per diffondere il giornaletto, ma anche per promuovere ai ragazzi attività ricreative, culturali, informative o di svago come i campeggi estivi. Beh, abbiamo visto che questa cosa era già presente come idea nel Germoglio, che a sua volta riprendeva dal giornalino di Vamba. Ma torniamo alle parole di Yuri Meda. Ma il primo periodico del Partito Socialista è Cuore, il giornale illustrato, è il primo, se ci avete badato, dove c'è scritto giornale illustrato per i ragazzi, è interamente a colori e sembra la fotocopia di Corriere dei Piccoli. Questi sono Taddeo e Veneranda, che sono due personaggi sostanzialmente del due ricconi, belli pasciuti, ciccioni e quant'altro, no? Che sono lì che stanno gozzovigliando, mentre fuori ci sono due bambini che stanno allo steccato, guardano dentro, sognando di poter anche loro mangiare quello che stanno mangiando all'interno questi due ricchi borghesi. E ci sono molte storie che raccontano questo, come anche molte storie ispirate per esempio al pacifismo, ricordiamoci, siamo immediatamente dopo la Prima Guerra Mondiale. Arriviamo con il Cuore illustrato a 1923, perché nel 1922, cioè 21 come vi ho detto nasce, arriva solo fino al 1923, perché nel 22 che cosa succede? La marcia su Roma. La direzione del Avanti Socialista, il quotidiano, l'organo del Partito Socialista di Milano, presso la cui tipografia si stampa Cuore, viene data alle fiamme, e per un certo periodo Cuore non esce più, mi sembra per 2-3 settimane. Poi riesce, va avanti qualche settimana, ma sostanzialmente non si riprenderà più, perché comincia la lotta vera nei confronti, che poi porterà fino al 1925, dopo l'omicidio Matteotti, con Cuore si inserisce all'interno di questa esperienza qua. È un'esperienza molto importante, il Partito Socialista prende coscienza dell'importanza della comunicazione illustrata per portare i propri valori, la propria cultura nel mondo dell'infanzia, ma questo esperimento ha vita breve per questo motivo. E poi c'è lui, Fanciullo Proletario, il giornale per i fanciulli operai dei contadini, che è veramente incredibile perché va alle scuola senza scarpe il Fanciullo Proletario, mentre in auto se ne va il Paffuto Milionario, dice la prima cosa, no? E poi va avanti con tutta una filippica sui rapporti tra maestro e gerarca, la Chiesa che sostanzialmente dice ai bambini di contentarsi di quel poco che hanno, di non rompere sostanzialmente più di tanto le scatole, e poi che loro invece le scatole decidono di romperle, pane e lavoro e non la guerra, vanno a scrivere su un muro, viva la Russia dei Soviet, detto oggi sarebbe una cosa, li mettiamo subito al muro anche noi, e poi dopo qua vanno a chiedere la refezione gratis con un cartello, perché sono figli di proletari che, voi sapete, all'epoca non c'era il pane per le famiglie, figuriamoci glielo davano a portare a scuola. Oggi se non siamo lì a disquisire se è meglio la foglia di cavolo o le carote col formaggio nelle mense per i bambini, all'epoca c'erano altri problemi, no? E prendono a calci sostanzialmente il rappresentante del partito in orbace, no? Cavolo, cioè questo qua è veramente un giornalino comunista, cioè qui si dà un'immagine di un'infanzia armata che va addirittura a prendere a calci, cioè roba che se lo facevano davvero i bambini che leggevano questa cosa finiva in carcere, loro fino alla quarta generazione con anche i bisnonni siano ancora vivi, quindi un'immagine praticamente sostanzialmente veramente poco reale. E però dà anche l'idea dell'approccio del Partito Comunista dell'epoca nei confronti di questo problema, cioè quello educativo, educare i bambini ad essere antifascisti, ma educare i bambini ad essere antifascisti in un'Italia che era completamente fascistizzata non era solamente difficile, era praticamente impossibile. Infatti il giornalino durerà pochissimo e sostanzialmente questa visione un po' bordighista, potrei dire, è una parola per intenditori, questa qua, bordighista del partito, verrà insomma in qualche modo ridimensionata finalmente quando nel dopoguerra si comincerà invece una nuova stagione della stampa periodica per l'infanzia, che avrà una matrice completamente diversa perché vedrà un predominio netto della comunicazione visiva, dell'illustrazione sostanzialmente, e vedrà definirsi anche in maniera molto forte quello che è la cultura educativa che in qualche modo il Partito Comunista è pioniere, no, pioniere è un'esperienza importante. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano